Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Luisa diventava grande. La signora Eleonora s'ammalò gravemente e il rapporto s'allentò, con molta soddisfazione della signora Moreau, che riteneva dannosa per la carriera del figlio la confidenza con simili persone. Sognava di fargli avere il posto di cancelliere in tribunale. A Federico l'idea non ripugnava poi tanto. Adesso accompagnava sua madre in chiesa, la sera giocava a carte, s'abituava alla provincia, ci si lasciava scivolare dentro. E persino il suo amore, ormai, aveva assunto una dolcezza un po' funebre, una specie di soporifero incanto. A furia di riversare il suo dolore nelle lettere che scriveva, di mescolarlo alle sue letture, di portarlo a spasso per la campagna, insomma di spargerlo dappertutto, gli aveva quasi dato fondo. E i suoi sentimenti erano diventati tanto tranquilli e rassegnati che Madame Arnoux per lui era come una morta di cui si stupiva di non sapere dove fosse sepolta. Un giorno, il 12 dicembre 1845, verso le 9 di mattina, la cuoca gli portò su in camera una lettera. L'indirizzo, scritto a grossi caratteri, era di mano sconosciuta e Federico, ancora mezzo addormentato, non si fece fretta ad aprirla. Alla fine lesse: «Giudice conciliatore di Le Havre, terza sezione. Signore, il signor Moreau, suo zio, essendo morto, ab intestato, ereditava». Come se un incendio fosse divampato di colpo dalla parete, Federico saltò dal letto in camicia a piedi nudi. Si stropicciò la faccia con la mano, dubitando dei suoi stessi occhi, pensando ancora di sognare, e per confermarsi nella realtà spalancò la finestra. Aveva nevicato, i tetti erano bianchi, e nel cortile riconobbe persino un mastello per il bucato che la sera prima a momenti lo faceva cadere. Rilesse la lettera 3 volte di fila. Niente di più vero. Tutto il patrimonio dello zio, 27.000 franchi di rendita. Una gioia frenetica lo travolse all'idea che avrebbe rivisto Madame Arnoux. Con la precisione di un allucinato, si vide in casa sua, vicino a lei, in atto di offrirle qualche regalo avvolto in carta di seta mentre il suo tilburi aspettava alla porta. Anzi no, una carrozza vera e propria, una carrozza nera, e accanto un domestico in livrea bruna. Sentiva scalpitare il suo cavallo e i colpi secchi degli zoccoli confondersi col brusio dei loro baci. E sarebbe stato così, ogni giorno all'infinito. Li avrebbe invitati a casa sua. La sala da pranzo sarebbe stata in cuoio rosso, lo spogliatoio di seta gialla, dappertutto divani. E che mobili, che vasi cinesi, che tappeti. Le immagini incalzavano così tumultuosamente che gli girava la testa. A un tratto si ricordò di sua madre e, sempre con la lettera in mano, scese a pian terreno. La signora Moreau, nel tentativo di contenere la sua emozione, svenne. Federico la prese tra le braccia e la baciò sulla fronte. «Mia buona mamma, potrei ricomprarti la carrozza adesso. Ma ridi dunque, smettila di piangere, non sei contenta?» 10 minuti più tardi, la notizia era già arrivata alle ultime case di Nogent. Arrivarono di corsa Gamblin, Chambion, la signora Benoit, tutti gli amici. Federico scappò via un minuto per scrivere a Delorier. Sopraggiungevano nuove visite. L'intero pomeriggio trascorse in felicitazioni. C'era di che scordarsi della moglie di Roch, che non di meno era molto giù. Quando la sera si ritrovarono soli, la signora Moreau disse al figlio che gli consigliava di stabilirsi con uno studio d'avvocato a Troyes. Essendo più conosciuto lì, a casa sua, che altrove, gli sarebbe stato più facile trovare dei partiti vantaggiosi. «Ah, no, questo è troppo!» esclamò Federico. Aveva appena toccato la felicità e già si voleva portargliela via. Notificò alla madre la sua decisione formale d'andare a vivere a Parigi. «E a fare che?» «Niente!» La signora Moreau, sorpresa di quei modi, gli domandò cosa volesse diventare. «Ministro», rispose Federico. E s'affrettò a dichiarare che non scherzava affatto, che aveva intenzione di mettersi nella carriera diplomatica, alla quale lo indirizzavano i suoi studi e le sue inclinazioni naturali. Per cominciare, merce l'aiuto del signor D'Ambrese, sarebbe entrato nel Consiglio di Stato. Ah, lo conosci? Certo, attraverso Rock. Ma guarda, disse la signora Moreau. Federico aveva ridestato nel cuore di sua madre antichi sogni d'ambizione. Tornò ad abbandonarvisi dentro di sé e non fece più parola d'altri progetti. Se avesse dato retta alla sua impazienza, Federico sarebbe partito all'istante. Il giorno dopo, i posti sulla diligenza erano tutti presi. Dovette rodersi sino all'indomani, alle 7 di sera. Stavano per mettersi a tavola per la cena, quando dalla chiesa vennero 3 lunghi rintocchi di campana e la cameriera, entrando, annunciò che era morta la signora Eleonora. Dopotutto, era una morte che non rendeva infelice nessuno, neanche sua figlia. La bambina non poteva averne che dei vantaggi in futuro. Dato che le due case confinavano, si sentiva un continuo andare e venire, un sommesso vocio. E l'idea di quel cadavere così vicino metteva qualcosa di funebre nella loro separazione. La signora Moreau fece 2 o 3 volte il gesto d'asciugarsi gli occhi. Federico aveva il cuore stretto. Subito dopo cena, Caterina lo fermò sulla porta. La signorina voleva vederlo assolutamente. Lo aspettava in giardino. Federico uscì di casa, scavalcò la palizzata e si diresse, rasentando gli alberi, verso la casa di Rock. La luce era accesa a una finestra del secondo piano. Poi nelle tenebre venne avanti una figura e una voce mormorò: «Sono io». Gli sembrò più alta del solito, certo per il vestito nero che portava. Non riuscendo a trovare la frase adatta, si accontentò di prenderle le mani e, con un sospiro: «Mia povera Luisa». Non rispose. Lo guardò a lungo, profondamente. Federico aveva paura di perdere la diligenza, gli sembrava già di sentire da lontano un rumore di ruote, e per finirla aggiunse in fretta: «Caterina m'ha detto che avevi qualcosa». «Oh, sì, è vero, volevo dirle». Quel lei fu una sorpresa per Federico, e siccome la fanciulla continuava a tacere, allora che cos'era? «Non so, l'ho dimenticato». «È vero che parte?» «Sì, tra poco». Luisa ripeté: «Tra poco? È così? È vero? E non ci rivedremo più?» I singhiozzi la soffocavano. «Addio, addio! Oh, baciami!» E lo strinse a sé impetuosamente. Quando Federico fu seduto al suo posto, proprio in fondo alla vettura, e sentì che la diligenza cominciava a scuotersi al moto dei 5 cavalli slanciati in un sol trotto, gli parve che l'ebbrezza lo travolgesse come un'ondata. Quasi fosse un architetto che disegna la pianta di un palazzo, si mise a predisporre tutta la sua vita, colmandola di cose splendide e delicate. Era alta fino al cielo, una dovizia di oggetti vi si mostrava, e la sua contemplazione interiore era così profonda che tutto intorno a lui era scomparso. La fermata al dazio fu lunga per un ingombro provocato da pollivendoli e barrocciai e da un gregge di pecore. Ripartiti, il conducente lanciava il suo grido sonoro: «Largo, largo!» e gli spazzini si tiravano da parte. I passanti saltavano indietro mentre il fango schizzava fin sui finestrini. Si incrociavano carri, calessi, omnibus. Finalmente cominciò a sfilare la cancellata del Jardin des Plantes. La Senna giallastra arrivava quasi alle tavole dei ponti. Ne esalava una frescura che Federico aspirò con tutte le sue forze, assaporando la buona aria di Parigi, che sembrava portare con sé effluvi amorosi ed emanazioni intellettuali. Alla vista del primo fiacre ebbe come un moto di tenerezza. Sentiva di amare anche le soglie dei vinai sparse di segatura, anche i lustrascarpe con le loro cassette, anche i commessi di droghiere che vedeva passando mentre scuotevano le padelle per tostare il caffè. Qualche donna andava a passettini rapidi sotto il suo ombrello. Federico si sporgeva per distinguerne il volto. Un caso avrebbe potuto far sì che Madame Arnoux uscisse di casa. Poi ripassarono la Senna sul Pont Neuf, scesero fino al Louvre e per Rue Saint-Honoré, raggiunsero la Rue Coq-Héron ed entrarono nel cortile dell'albergo. Per prolungare il piacere dell'attesa, Federico ci mise più tempo che poté a cambiarsi d'abito e decise persino di andare a piedi in Boulevard Montmartre. Sorrideva fra sé all'idea che avrebbe rivisto di lì a poco quel nome adorato sul marmo dell'insegna. Alzò gli occhi. Niente vetrine, niente quadri, più niente. Corse in Rue de Choiseul. I signori Arnoux non ci stavano e la guardiola del portinaio era custodita momentaneamente da una vicina. Federico volle aspettarlo. Il portinaio comparve alla fine, ma non era più lo stesso. Non conosceva il loro indirizzo. Federico andò in un caffè e si fece dare, mentre faceva colazione, l'annuario commerciale. C'erano 300 Arnoux, ma nessun Jacques Arnoux. Ma dove saranno andati a stare, insomma? Tornò in albergo e si mise a letto. Proprio mentre si stendeva fra le lenzuola, un'idea gli fece fare un salto di gioia. «Régine Bar! Che imbecille a non averci pensato prima!» I nomi dei locali gli sgorgarono dalla memoria tutti in una volta, di colpo, come i 1000 frantumi d'un fuoco d'artificio. Gascard, Grimbert, Halbu, Café Bordelais, Buffalo Mode, birreria tedesca. e in tutti quanti si trascinò un posto dopo l'altro. Ma in uno Regimbar era appena uscito, in un altro poteva darsi che arrivasse, in un terzo erano 6 mesi che non lo vedevano, altrove aveva ordinato proprio ieri un cosciotto per il sabato. Finalmente, da Vautier, specialità gelati, Federico nell'aprir la porta s'era urtato col cameriere. «Conosci il signor Regimbar?» «Se lo conosco, signore. Ma proprio io ho l'onore di servirlo. È di sopra, sta finendo di mangiare.» Col tovagliolo sotto il braccio era intervenuto il proprietario in persona. «Il signore cerca il signor Regimbar. Era qui proprio adesso.» Federico cominciava a sacramentare, ma il gelataio aggiunse che l'avrebbe trovato da Boutvillain infallibilmente. «Gliela assicuro, parola mia d'onore. Se n'è andato un po' prima del solito perché aveva un appuntamento con dei signori. Ma lo troverà, ripeto, da Boutvillain, rue Saint-Martin 92, seconda scala a sinistra in fondo alla corte, ammezzato, porta a destra.» Lo scorse, infine, attraverso il fumo delle pipe nel retro della sala del biliardo, solo, davanti a un boccale di birra, col mento abbassato e un'aria meditabonda. «Ah, lei! È un bel pezzo che la sto cercando!» Senza commuoversi, Regimbar gli porse 2 dita appena e, come se si fossero incontrati la sera prima, gli elargì svariate frasi insulse sull'apertura della sessione. Federico l'interruppe con l'aria più naturale che poteva e... «Arnoux, sta bene?» La risposta tardava a venire. Regimbar stava facendo con la sua bevanda una specie di gargarismo. «Non c'è male. E dove abita adesso?» «Ah, in rue Paradis Poissonnier», rispose il cittadino sbalordito. «Numero? Ma al 37, che diamine! Lo sa che è un bel tipo?» Federico si alzò. «Ma come, va via? Sì, una commissione, una faccenda che stavo per dimenticare. Addio!» Dal caffè Federico giunse a casa di Arnoux come se lo trasportasse un vento tiepido, con quell'impressione di straordinaria facilità che si prova nei sogni. Fu subito a un secondo piano, davanti a una porta il cui campanello stava già squillando. Comparve una domestica, un'altra porta si dischiuse. Madame Arnoux era seduta accanto al fuoco. Arnoux si alzò di scatto ad abbracciarlo. Lei aveva sulle ginocchia un bambino di forse 3 anni. Sua figlia, alta ormai come lei, stava in piedi dall'altra parte del camino. «Mi permetta di presentarle questo signore», disse Arnoux prendendo suo figlio per le ascelle, e si divertì per qualche minuto a lanciarlo per aria molto in alto e a riprenderlo sulle sue braccia tese. «Santo cielo! Smettila! Finirai con l'ucciderlo!» gridava Madame Arnoux. Thank you. Arnoux chiese a Federico come mai era stato tanto tempo senza scrivere, cosa avesse fatto laggiù, perché adesso era tornato. «Quanto a me, amico mio, sono diventato mercante di ceramiche, ma parliamo di lei». Federico addusse un lungo processo, la salute della madre, insistendo molto su questo punto per rendersi interessante. Insomma, si stabiliva a Parigi per sempre questa volta. Dell'eredità non fece parola, temendo di nuocere al suo passato. Federico s'aspettava di provare una gioia spasmodica, ma le passioni languiscono se le si porta via dai loro luoghi. Non ritrovando Madame Arnoux nell'ambiente in cui l'aveva conosciuta, gli sembrava che avesse perduto qualcosa, che avesse subito una specie di degradazione, insomma, che non fosse più la stessa. La calma che sentiva in cuore lo sbalordiva. Si informò dei vecchi amici, di Pellerin tra gli altri. «Non ci vediamo molto», disse Arnoux. Lei aggiunse, «non riceviamo più come una volta». Era per avvertirlo che anche per lui non ci sarebbero stati inviti? Ma Arnoux, sempre più cordiale, gli riproverò di non essere venuto, anche senza preavviso, a pranzare da loro. Poi si diede a spiegargli perché aveva cambiato attività. «Che cosa si può fare in un periodo di decadenza come il nostro? La grande pittura non è più di moda. E poi l'arte si può mettere dappertutto. E lei sa che io amo la bellezza. Bisogna che la porti in fabbrica uno di questi giorni». E volle che vedesse immediatamente qualche suo prodotto nel magazzino che aveva nell'ammezzato. Le delucidazioni di Arnoux annoiavano Federico, che aveva freddo e fame. Andò di corsa al caffè Anglais, dove cenò sontuosamente, e mangiando diceva a se stesso: «Che sciocco, laggiù, con tutte le mie malinconie. M'ha riconosciuto a stento, quella borghesuccia». In un'improvvisa esplosione di salute, formulò propositi egoistici. Si sentiva il cuore duro come il tavolo che aveva sotto i gomiti. Insomma, avrebbe potuto buttarsi in mezzo alla gente ormai, senza alcuna paura. Pensò ai D'Ambreuse, gli sarebbero stati utili. Poi gli venne in mente Delorier. Peggio per lui, in fede mia. Però gli fece avere da un fattorino un biglietto dandogli appuntamento il giorno dopo per colazione al Palais Royal. Con Delorier la fortuna non era stata altrettanto tenera. S'era presentato al concorso d'abilitazione con una tesi sul diritto a disporre per testamento, nella quale sosteneva la necessità di limitare quanto più possibile tale diritto. E poiché il controrelatore s'era messo d'impegno a fargli dire delle stupidaggini, ne aveva dette parecchie, senza che gli esaminatori battessero ciglio. Era stato interrotto dal presidente. «Benissimo, signore. Non sappiamo che farcene delle sue opinioni politiche. Si ripresenterà la prossima volta». Delorier non s'era più ripresentato. Viveva dando ripetizioni, confezionando tesi di laurea, e alle riunioni nella sala degli avvocati terrorizzava con la sua virulenza il partito conservatore e i giovani moderati seguaci di Guizot, cosicché, in un certo mondo, godeva di una specie di celebrità non disgiunta da qualche diffidenza verso la sua persona. Giunse all'appuntamento con indosso un gran soprabito foderato di flanella rossa, simile a quello che portava un tempo Senecal. Per rispetto umano, a causa della gente che passava, s'astennero da eccessive effusioni e se ne andarono al ristorante tenendosi a braccetto e ridacchiando di piacere, con una lacrima in fondo agli occhi. Poi, appena soli, Delorier esclamò: «Per Diana, adesso sì che ce la passeremo bene!» Federico non apprezzò affatto quel modo d'associarsi così immediatamente alla sua fortuna. Gli parve che l'amico dimostrasse troppa gioia per loro due insieme e troppo poca per lui solo. Delorier raccontò in seguito dello scacco subito e a poco di tutta la sua vita, dei suoi lavori, parlando di se stesso con accento stoico e degli altri con acredine. «Per il resto, che novità ci sono? Sei sempre innamorato della signora Arnoux? T'è passata, eh?» Federico non seppe cosa rispondere. Abbassò la testa, socchiudendo gli occhi. A proposito di Arnoux, Delorier lo informò che il suo giornale adesso era di Ussonet, che l'aveva trasformato. Si chiamava L'Art, istituto letterario, società per azioni da franchi 100 cada una, capitale sociale franchi 40.000, con facoltà ad ogni azionista di buttar fuori in quella sede il suo manoscritto, dato che la società ha come scopo la pubblicazione delle opere degli esordienti, risparmiando così al talento, forse al genio, le crisi dolorose che non risparmiano, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi che razza di imbroglio. Qualcosa tuttavia si poteva fare, e cioè sollevare a poco il tono di detto giornale e poi, di colpo, tenendo gli stessi redattori e garantendo la continuazione dell'appendice, scodellare agli abbonati un giornale politico. Le somme da anticipare non sarebbero state enormi. Vediamo, tu cosa ne pensi? Ci staresti? Federico non rifiutò la proposta. Prima però bisognava mettere ordine nei suoi affari. Intanto, se hai bisogno di qualcosa... Grazie, ragazzo mio. Grazie, disse Delorier. Federico, turbato a tutta prima dall'amarezza dell'amico, ora addormentato e mezzo intontito dal vino che gli scorreva nel sangue, non provava più che un benessere immenso e stupidamente voluttuoso, come una pianta satura d'umidità e di calore. Anna Buonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.